si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento del sabato, la domenica a mezzogiorno su Radio 24 con l'altra cronaca. Cerchiamo di riportarvi il sorriso così dopo una settimana di depressione da cattive notizie, con cose di questo genere. Per esempio a Torino, se il tram arriva in ritardo, l'azienda dei trasporti ti rimborsa 3 euro, è poco però meglio di nulla, insomma sputaci sopra. È quello che prevede un accordo firmato tra l'azienda pubblica dei trasporti, il comune e le associazioni dei consumatori. Credo che sia la prima volta in Italia, una volta nella quale si riesce a fare questa cosa qua, cioè a rimborsare il povero cittadino alle prese con i ritardi dell'autobus, del tram e quant'altro. Ripeto, 3 euro saranno pochi, però meglio di nulla. Forse è un incentivo anche per l'azienda dei trasporti torinesi a mettere sotto controllo la questione dei ritardi. Questa notizia qua invece è bellissima, viene da Pordenone e riguarda un po' la questione del lavoro. Speriamo che siano le nuove leve a tirarci fuori dai guai, ragazzi. Qua accade a Pordenone, è una mini notizia però è gustosa. A 20 anni apre la sua impresa e assume il padre, fa l'imprenditore edile e ha ereditato l'attività dal padre che aveva perso il lavoro, ha aperto lui l'impresa e adesso per insomma c'è anche il numero di telefono nell'articolo di Repubblica, però questo non lo diamo, non importa. Speriamo siano i giovani a tirarci fuori dai guai. Un'altra notizia viene sempre dai giovani, dal mondo della scuola, da Parma. Contro le infiltrazioni criminali, ecco il software antimafia, messo a punto dai ragazzi dell'ITIS Leonardo da Vinci, appunto di Parma. Un software che nasce da un progetto con Libera, l'associazione di Don Ciotti, sapete, la prefettura, la provincia, per sensibilizzare sul tema della legalità. Allora hanno studiato un sistema che incrocia i dati dell'Agenzia delle Entrate, tanto ormai siamo tutti controllati, e dell'Anagrafe, e se ci sono delle cose che non tornano nelle transazioni immobiliari in particolare, loro evidenziano questa non conformità, e quindi è un software che potrebbe tornare utile anche alla prefettura di Parma, e stanno studiando proprio la fattibilità di questa cosa qua. Continuiamo a parlare di informatica perché siamo un po' preoccupati per questa questione del Datagate, no? Davvero non si scherza sulle violazioni della privacy, e pare che anche in Italia insomma non si scherzi su questo fronte. Noi siamo andati a cercare come sempre qualche buona notizia. Chissà quanti di noi sono veramente preoccupati dal tema della privacy sollevato in questo modo enorme dallo scandalo Datagate in America, con questo insomma 29enne ex tecnico della CIA che ha sollevato insomma il coperchio sul vaso di Pandora e ci ha fatto capire che insomma i giganti delle tecnologie americane, dell'informatica, giocano un po' con i nostri dati personali. Chissà quanti sono preoccupati di questi, insomma non so, adesso lo vediamo. Innanzitutto salutiamo il nostro ospite che è Roberto Nicolò, del Direttivo Nazionale degli Informatici Senza Frontiere. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, e grazie per l'opportunità. Allora, voi fate un lavoro un po' un po' diverso, insomma. Siete Informatici Senza Frontiere, che cosa fate prima di tutto? Beh, fondamentalmente Informatici Senza Frontiere, che è una onlus italiana, si occupa di utilizzare l'information technology e tutti i mezzi appunto informatici per colmare digital divide e dare le opportunità di crescita sociale e di sviluppo economico che l'informatica può portare anche in diversi paesi del mondo, magari paesi in via di sviluppo, ma anche nelle comunità, che ne so, terapeutiche o nei bambini a rischio e così via. Il digital divide, diciamo, magari per quei pochi che ancora non lo sanno, cos'è? Il divario tecnologico tra chi ha e chi non ha accesso alle tecnologie digitali, insomma, al computer. Sì, il divario alla rete. Digital divide è proprio questo, nel senso che ormai la società tecnologica informatizzata dà un accesso completo a chi è in grado di controllare, gestire e utilizzare al meglio questi strumenti, e comincia a tagliar fuori chi non è più in grado di farlo. Faccio un esempio, il modulo F24 per le tasse per le aziende ormai è esclusivamente informatizzato, per cui se non si ha una conoscenza del browser, si è tagliati fuori internet. Assolutamente. Ecco, io dicevo, chissà quanti saranno interessati dalla questione della violazione della privacy, lo scandalo DataGate appunto ha sollevato questa questione qua, no? L'ha riportata un po' d'attualità. E può essere significativo che proprio mentre si parla di questo, voi invece continuate a parlare di digital divide, cioè c'è qualcuno che sta fuori, però quelli che stanno dentro in realtà sono tutti a rischio, no? Sono a rischio, però io non tenderei a demonizzare eccessivamente i grandi operatori, i grandi fornitori. Noi facciamo anche educazione in questo senso, però noi rileviamo anche una notevole, diciamo, colpa dell'utente. Voglio dire, continuiamo a dividere la vita reale dalla vita virtuale, sì. Però via internet si acquistano pacchi, si acquistano scooter, macchine, e quando li hai acquistati ti arrivano a casa il giorno dopo. Allora, per quale ragione devo pensare che una mia interazione col web non interagisca nella vita reale? E quando mi iscrivo a un social network e magari si fa un'indagine statistica e si chiede quanti tra gli utenti abbiano a memoria della policy o della licenza che hanno accettato velocemente all'atto dell'iscrizione, probabilmente nessuno si ricorderà anche solo di averla compilata. Sicuramente i grandi operatori tendono a mettere molto in evidenza le loro policy, ma non è solo colpa degli operatori. Io do una grandissima responsabilità e superficialità all'utente medio, perché poi alla fine su Facebook quelle opzioni ci sono, però bisogna cercarle. Ecco, quindi insomma, voi dite non mettiamo la vita reale e la vita sul web su due pianeti diversi, perché entrambe si portano dietro le tracce e in entrambi i casi dipende da come ci si comporta. Si può fare cronache da un paese migliore. Noi ci siamo rivolti a voi, Roberto De Nicolò, Informatici Senza Frontiere, perché siete un po', dal nostro punto di vista, il lato buono dell'informatica. Voi appunto lottate contro il digital divide, fate anche dei corsi, della formazione, anche nelle scuole italiane, non solo nel terzo mondo, dove operate anche. In questi corsi, in questi incontri che fate anche per esempio con i ragazzi, che tipo di consigli date su come muoversi per quanto riguarda la privacy? Cioè, state attenti a non farvi fregare. Beh, fondamentalmente noi spieghiamo sempre avendo cura di non demonizzare, come dicevo prima, spieghiamo semplicemente quali sono i rischi. Li chiediamo ai ragazzi di postare, di pubblicare esattamente pensando un attimino all'eventualità di farlo o meno nella vita reale, come dicevo prima. Cioè, quello che pubblico su Facebook, quello che pubblico su YouTube, su social network, è di dominio pubblico, anche più che se io mostrassi la mia foto su una bacheca scolastica. Ed è probabilmente, anzi sicuramente, definitivo. Noi chiediamo semplicemente di farsi questa domanda: voglio che sia definitivo, lo pubblicherei sulla bacheca scolastica o comunque lo distribuirei ai miei amici? Sì, no. Se ti rispondono no, allora è meglio non pubblicare. La scelta non è estrema, non è complessa, diciamo. E devo dire che i ragazzi ci pensano abbastanza dopo, rimangono anche abbastanza stupiti. Una delle prove che si fa facilmente è chiedere al ragazzo di disconnettersi dal social network e di provare a cercare informazioni su se stesso tramite un motore di ricerca. Rimangono stupiti dalla quantità di informazioni che sono già disponibili, per esempio su Google, e si chiedono come mai e quando abbiano dato l'autorizzazione. Poi gli si dimostra che hanno accettato le policy senza leggerle e rimangono, devo dire, abbastanza... Ecco, questa questione qua delle policy che bisogna sottoscrivere quasi a tutte le parti, che la maggior parte di noi, è vero, effettivamente... sottoscrive sulla base della fiducia, lo hanno fatto gli altri, lo faccio anch'io. Poi in realtà si concedono una serie di cose senza neanche accorgersene. Ma come bisognerebbe fare? Cioè, bisognerebbe leggerle davvero e non sottoscrivere, per esempio, la policy di Facebook? Fondamentalmente vale, diciamo, in informatica vale una sorta di regola del minimo consentito. Io dovrei registrarmi e disattivare tutte le opzioni, dopodiché dovrei attivare solo quelle che mi servono. Questo dà la garanzia che io vada lì a pubblicare solo ed esclusivamente quello che che è il mio interesse. Ovviamente i grandi operatori del web lasciano praticamente attive di default le opzioni, ma del resto è anche comprensibile. Se un servizio come YouTube o Gmail mi donano spazio, servizi mail, servizi video gratuitamente, in qualche modo dovranno anche sopravvivere per investire quelle centinaia di milioni di dollari che servono loro per portare avanti il sistema. Questo mi sembra chiarissimo, purtroppo, ma c'è scritto da qualche parte nelle clausole che loro mi possono leggere i contenuti, per esempio, della posta elettronica, visto che facevo questo esempio? Perché sembra che se io parlo con mio amico Mario delle vacanze che vogliamo fare, poi mi appaiono le pubblicità di vacanza. Allora, un conto è navigare su certi siti e Google ne porta traccia, ma un conto è leggersi la mia posta. Non è proprio così, nel senso che, allora, fondamentalmente si dice che ogni persona che naviga un sito web, anche senza loggarsi, anche senza interagire in maniera appropriata, lasci almeno 56 segni del proprio passaggio e dei propri gusti. Può essere il primo link sul quale ho cliccato, può essere l'articolo che ho cercato in un motore di ricerca, una serie di dati che vanno a definire una mia profilatura, e questo relativamente a un solo sito, immaginiamo decine di siti. Tutto questo viene salvato in diciamo dei piccoli file che si chiamano cookie, biscottino in inglese, sono dei piccoli file che vengono salvati sul browser, e quando la rete, come per esempio nel caso di Google, che è proprietaria di Gmail, di YouTube e di altri servizi, utilizza lo stesso sistema, diventa facile che con la profilatura che hanno fatto dei miei gusti mi ripropongano pubblicità anche nella mia mail. Non è che vanno a leggere necessariamente, anzi è quasi sicuro che non lo facciano, difficilmente gli interessa il contenuto della mia mail. Visto che fate molti progetti come Informatici Senza Frontiere, ne abbiamo accennato alcuni all'inizio dell'intervista con Roberto De Nicolò, ci vuoi raccontare uno degli ultimi a cui state lavorando, così diamo anche il senso di quello che fate, di come combattete il digital divide? Sì, fondamentalmente uno dei più importanti è Strillone, che è un'applicazione per non vedenti che permette di ascoltare le news, ed è disponibile su Google Play e su Android Market, anche su appunto telefoni Android touchscreen, e mi permetto di aggiungere anche un comunicatore di nome I Speak Again, ISA, disponibile all'indirizzo www.ispeakagain.org, che permette ai malati di SLA e tetraplegici, alle persone comunque immobili in un letto, di interagire con il solo movimento della testa col computer e navigare il web. E infine, velocemente, con Accordi Abili, l'associazione fondata dal maestro Vincenzo De Luci, che è tetraplegico a seguito di un incidente, abbiamo realizzato dei prototipi che gli hanno consentito di risuonare la tromba a pistoni mediante la mobilità residua del suo braccio, e anche qui strumenti musicali per disabili, tipo batterie elettroniche che si possono suonare con due dita e così via. Vabbè, insomma, complimenti per tutto quello che fate, grazie per essere stati con noi Roberto De Nicolò, Informatici Senza Frontiere, buon lavoro. Grazie a voi, ciao Alessio. A presto. Adesso noi cambiamo del tutto argomento e parliamo di un progetto energetico importante che ci porta in Piemonte. Il progetto energetico di cui parliamo riguarda la città di Verbania e l'idea di produrre biodiesel dai rifiuti. È quasi un sogno, invece di andare a trapanare il suolo per cercare il petrolio, si ottengono due risultati buoni in uno: si eliminano i rifiuti e si produce, come per miracolo, un carburante. Funzionerà? Salutiamo Roberto Tomatis, vicepresidente di VCO Trasporti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi. L'azienda dei trasporti è di Verbania. L'azienda di trasporto locale della stessa provincia del Verbano Cusio-Ossola, quindi noi ci occupiamo di 17 concessionari di linee sul territorio, non solo del capoluogo di Verbania. Per un bacino di quanti abitanti? Ma è un bacino di utenza per noi, tanto per darvi qualche numero, la bellezza di circa 2 milioni di passeggeri all'anno, anche se è una provincia piccolina con circa 90.000 persone. Sappiamo che come provincia non è grossissima, tra l'altro che provincia adesso non si sa. Lei ha notizie sulle province? Io no. È un tema che non vorrei toccare, anche perché il tema anche sul trasporto pubblico locale, sì, anche è uno dei punti deboli forse della faccenda. È caldo, però è stato chiuso, è stato firmato il trasporto, scusi, il contratto del trasporto pubblico locale poco tempo fa, che questo credo che sia una buona notizia, insomma. Sì, è una buona notizia, anche se si prevedono ormai da quell'accordo nel 2014 e 2015 per quanto riguarda la nostra regione, dei tagli, e quindi cercheremo di coprire questi tagli con chiaramente altre soluzioni. Non per niente anche il discorso della ricerca partita un anno fa ci ha messo nelle condizioni, nella voce del bilancio del gasolio, trovare alternative. E voi ci state provando, la parola magica è pirolisi, ci spieghi? Pirolisi è semplicissimo, noi già come azienda di trasporto pubblico locale vicino a noi nella stessa sede c'è l'altra azienda, ConservCO, sono due aziende pubbliche sul territorio. Cosa facciamo? Facciamo la raccolta chiaramente differenziata già da molti anni, e quindi abbiamo raccolto che cosa? L'umido ha una percentuale altissima, si parla del 73% su tutta la provincia, quindi sono dati altissimi nella raccolta differenziata. Ci congratuliamo con i residenti che sono bravi, ecco qui, e anche le aziende che si occupano, però anche gli abitanti. Quello sicuramente. E cosa abbiamo fatto? Nient'altro che prendere questo umido, quindi si parla di mangiare, gli scarti o tutto quello che può essere la pulizia della verdura, tutto il resto, e con la pirolisi si va a scaldare la materia, quindi, che abbiamo raccolto. Si differenziano in quel momento la parte acqua da quella oleosa. La parte oleosa è quella che noi porta che cosa al laboratorio? Dopo vari report in vari momenti climatici durante l'anno, perché ogni momento è diverso per quanto riguarda anche la raccolta, abbiamo notato che in ogni caso non perdeva l'olio di quantità o di intensità appunto della materia. Quindi l'olio è paragonabile appunto alle stesse condizioni con la parte, chiamiamola così, del petrolio. Stesse condizioni, stessa materia, la differenza è solo che non abbiamo bucato, come diceva giustamente lei all'inizio, non abbiamo trivellato, ma abbiamo ripulito le case e l'abbiamo poi mescolato per ottenere l'olio. Cosa vi manca per andare a regime con questa idea che è forte, insomma, però ci sarà qualche passo ancora da fare, altrimenti... Diciamo che il passo, quello che era importante era capire se questo si poteva ottenere, e questo è il passo principale. Adesso cosa accade? Nei prossimi mesi si farà l'operazione di raffinazione, questa è già una fase in cui verranno abilitati dei partner a livello nazionale che si occupano già di questo, quindi raffinare quell'olio diventerà poi il famoso biodiesel da prova, ma quello che a noi interessa oggi è quello di arrivare in giro di pochi anni ad avere la prima strumento di pirolisi, perché noi oggi l'abbiamo fatto in piccolo laboratorio a Firenze e questo ha ottenuto quello che è il risultato, dovremmo farlo in scala industriale. Porta poco spazio, quindi non si va a rovinare l'ambiente, anzi questo il biodiesel metterà nelle condizioni anche in futuro, come sta accadendo anche in questi giorni al Parlamento europeo, stanno in agenda parlando del famoso biocarburante, ci metterà nelle condizioni di avere anche una qualità. Diamoci un tempo, così ci risentiamo tra quanto tempo per vedere a che punto siete? Noi cercheremo con tutti i partner di velocizzare il tutto un paio d'anni per quanto riguarda la parte. Speriamo noi, come si può fare di esserci ancora tra 2 anni, magari è cambiata radio, è cambiato programma, è cambiato tutto. No, non credo. Nei prossimi mesi ci sarà la raffinazione, poi la costruzione, è questo che mi viene a dire. Complimenti per l'idea e soprattutto in bocca al lupo per la realizzazione, che come sempre in questi progetti è la cosa fondamentale. Grazie intanto a Roberto Tomatis, presidente della VCO Trasporti, per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Italia sì, Italia no, Italia boom, la terra di cacchi. Il nostro appuntamento con le amenità italiane e non solo. Questa volta partiamo da una notizia che viene dall'America. Spese folli per cani e gatti anche a Wall Street. Cioè ci sono una serie di aziende che si stanno quotando e che hanno il loro core business proprio in questo, cioè nelle spese per gli animali. È un settore che tira, poi dici che c'è la crisi. Evidentemente non abbastanza, perché è quello che succede anche da noi. Stanno crescendo e stanno esplodendo queste spese per animali in generale. Può anche essere però una indicazione un'occasione per un investimento economico se qualcuno vuole aprire un'impresa. Volete un'idea? C'è il lanciapalle automatico per cani, l'aria condizionata per la cuccia, un kit ignifugo d'emergenza con tanto di giubbino d'amianto e bombola d'ossigeno per evacuare in caso d'incendio il nostro fedele compagno. Questo è quello che leggiamo dalla cronaca americana in questi giorni. Un'altra notizia riguarda velocemente il mondo delle biciclette. Voi sapete che da questi microfoni siamo amici della mobilità nuova, pedali, pedoni e pendolari. Non sempre però gli esperimenti vanno a buon fine. Questa volta a Rovereto il comune aveva messo delle biciclette gratuite, proprio gratuite, che uno poteva prenderla, mollarla senza neanche chiuderla, però l'importante è che fossero in circolazione. Bene, naturalmente cosa è successo? Sono sparite tutte. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Intanto ringraziamo Cinzia del blog Tipi Tosti, autrice, redattrice del blog Tipi Tosti, andatelo a cercare sui motori di ricerca perché è lei che ci ha regalato questa storia. Quindi continuate a segnalarci su Facebook, si può fare Radio 24, su Twitter si può fare 24, poi c'è anche il mio Ale Maurizio. Insomma, segnalateci le vostre belle storie perché le più belle poi le mandiamo in onda. E poi l'ambientazione musicale, molti hanno ancora negli occhi e nelle orecchie l'idea dei detenuti, delle carceri americane che lavorano sotto il sole col piccone a spaccare le pietre. Si può fare anche di meglio, sempre però coinvolgendo i detenuti in lavori socialmente utili. È quello che accade a Verona grazie alla bella impresa, alla bella storia di Giuseppe Ongaro, che andiamo a salutare. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Titolare della Lavoro e Futuro SRL, una impresa sociale, possiamo aggiungere questo aggettivo, che lavora all'interno del carcere di Verona e forse non solo. Adesso ci spiegherà, con un bel po' di detenuti, una scelta nata qualche anno fa. Quando esattamente, Giuseppe? Nel 2005 con il mio socio, sì? Riccardo Somma, che è assolutamente indispensabile per questa scommessa che abbiamo iniziato e che a 8 anni abbondanti di distanza si vede ancora presente, insomma, questa è una soddisfazione. Intanto voglio fare una premessa: perché ci occupiamo di questa storia? Perché sappiamo che i detenuti coinvolti nei processi, nei progetti rieducativi ma anche di lavoro eccetera, hanno una recidiva più bassa in genere. Le statistiche lasciamolo a chi si occupa di questo, noi adesso parliamo di un progetto particolare, però è una buona notizia, è importante, perché non è che quando si chiudono le porte del carcere dietro al detenuto si è risolto il problema, lì inizia un altro problema che è quello della rieducazione. E Giuseppe Ongaro con la sua azienda, insomma, mette in ballo quanti, per esempio, detenuti lì a Verona? Quanti lavorano con lei? Ma adesso sono più di 70. Insomma, non... quasi un'ottantina. Non pochi. Che cosa producete là dietro le sbarre? Di cosa vi occupate? Allora, la premessa è questa. Noi per fare muovere tante mani non abbiamo automazioni. Perché sarebbe gioco facile, diciamo, avere delle macchine che fanno migliaia di pezzi. Il nostro obiettivo non è l'arricchimento, ecco, è fare un conto economico, avere un conto economico che sia e che ci renda autosufficienti, e questo ci basta e avanza. Ecco, fatta questa premessa, che non vuole essere da buonista ma da imprenditore, direi che, per dare un'idea, l'anno scorso abbiamo lavorato più di 16 milioni di pezzi, quindi cosa si fa? Si fa un po' tutto quello che onestamente quello che serve. Siamo capaci di fare. Ecco. Però, insomma. Quindi passiamo da 15 mila piante in produzione all'assemblaggio... Piante. Sì. Per piante, i vivai? Piante, per... piante da giardino. Da giardino, diciamo, ecco, sì. Piante da giardino. All'assemblaggio manuale di profumi, di mattonelle a mosaico in pietra e vetro, di postalizzazione, quindi mettere nelle lettere, i gadget, quello che l'utente finale riceverà, sì. Ad un'officina che abbiamo fatto con i detenuti, È un'officina che ha un capannone di 360 metri quadrati, altri due capannoni di 80 metri quadrati, dove facciamo da gazebi, ringhiere, cancelli, tutto ciò che è lavorabile col ferro. Anche le rastrelliere per le biciclette? Che noi ecco, ci siamo sempre interessati alla bicicletta. Sì. Allora, questo progetto è nato con gli amici della bicicletta, con l'associazione Amici della Bicicletta, che a livello nazionale, loro hanno individuato la tipologia e quindi il progetto di questo porta biciclette, sì, che noi abbiamo sviluppato assieme ad un'altra carissima persona che si chiama Lentini, che saluto, e assieme a loro siamo riusciti a fare un porta biciclette che oggi viene venduto in tutta Italia. Il comune di Milano credo avesse in animo di ordinarcene 5.000, noi ne abbiamo forniti 300 perché non riusciamo a starne fuori con i soldi, non abbiamo la potenza economica di poter aspettare purtroppo le lungaggini di un pagamento di un comune. Questo però, è un altro tasto debole, insomma, questo tasto dolente, questo dei pagamenti dei comuni. Boh, sì, speriamo si risolva. Voglio ricordare anche voglio ricordare un altro progetto, visto che siamo in argomento, sempre di questa settimana, se no poi dicono che ci occupiamo solo del nord, che viene da Firenze al carcere di Sollicciano, un progetto della Caritas, ma anche ovviamente del comune, del carcere, eccetera, che prevede degli impianti di lavanderia presso la casa circondariale Mario Gozzini, che gestirà, per esempio, in questo caso tutti i servizi della Caritas, cioè laveranno tutti i panni e poi insomma è un'attività economica. Anche questo è stato firmato il protocollo proprio qualche giorno fa, allora è giusto ricordarlo. Però logisticamente, no, c'è anche la curiosità di capire, Giuseppe, come funziona? Cioè, voi siete dentro il carcere e quindi proprio il capannone sta dentro le mura del carcere? Sì, noi abbiamo, ma qui senza fare lungaggini di storia, noi siamo partiti con 32 metri quadrati di un corridoio, oggi abbiamo realizzato 1.800 metri quadrati di luoghi di lavoro, quindi il passaggio è stato notevole. Sono spazi che abbiamo coperto, abbiamo tutti gli impianti a norma, abbiamo fatto tutte le cose come fosse una piccola azienda, insomma. Sì. E, cosa che a tutti gli effetti poi è, insomma, non è che... Che è a tutti gli effetti, sono un SRL, quindi... Ha solo questa particolarità di essere all'interno del carcere di Verona, insomma. Sì, la logistica è pesante perché noi dobbiamo andare a prendere tutte le cose che dobbiamo lavorare, dobbiamo riportarle una volta finite dai clienti. E come piccolo particolare, teniamo conto che le carceri non sono luoghi predisposti per il lavoro, quindi c'è un passaggio obbligato alto 3,5 metri che impedisce a camion di una certa grandezza di entrare. Quindi noi dobbiamo portare all'interno delle carceri con nostri mezzi, per esempio, tutti i materiali, quindi con carretti, con muletti, con un bel traffico, insomma abbiamo cambiato le abitudini del carcere, diciamo. Ecco, voi lo sentite così, Giuseppe Ongaro, titolare appunto del Lavoro e Futuro SRL, che ha la particolarità di lavorare con 75 detenuti nel carcere di Verona, però è una persona che, insomma, a sentirli raccontare anche la sua storia ne ha da raccontare, perché Giuseppe, lei prima faceva il manager e tra l'altro anche credo con soddisfazione economica a un certo livello. Poi però c'è tutto, ha cambiato vita e memoria del suo passato di scout, di già fondatore di una cooperativa anni e anni fa, credo per i disabili, è venuta fuori quest'anima sociale e a un certo punto la molla è stata proprio quella di voler cambiare completamente, perché come si fa ad aprire un'attività del genere, una scelta strana prima di tutto? Direi questo, allora lei mi ha fatto due riferimenti in un solo discorso. Allora, il primo riferimento è al lavoro che facevo prima. Sì, a me venivano date solitamente delle aziende che rendevano poco e bisognava quindi riassettarle. Questo comportava un lavoro che oggi verrebbe definito tagliatore di teste, insomma, oggi come ieri, no? E quindi io ho fatto anche questo. Ho avuto dei casi in cui tante persone sono rimaste senza lavoro. Ma diciamo questo non mi ha creato problemi particolari perché per me era una professione come ce ne sono. Sono le regole del gioco, poi magari uno si può fare qualche domanda, però insomma, però questa cosa a un certo punto non bastava più. Diciamo che si era trasformato negli ultimi anni il concetto di ristrutturazione aziendale, andando alla ricerca non tanto di ristrutturare l'azienda perché questa poi avesse possibilità di crescere un domani, ma direi spinta, la cosa era solo spinta per avere il massimo guadagno nel più breve tempo possibile, e quindi il fatto di eliminare dei reparti era proprio in funzione di questo focus. Io francamente ho sempre fatto lavori che mi hanno dato soddisfazione, quindi quando ho perso il grip, quando ho perso la soddisfazione, ecco, mi ripeto, di fare quel tipo di lavoro, ho preso un anno sabbatico, tipicamente americano, e ho pensato cosa facevo da grande, insomma, avevo già 44 anni, quindi è venuto fuori le carceri, quest'altro mondo. Non è che finito in carcere una volta e allora di lì ha scoperto, no? Allora, la mia prima esperienza in carcere è stata a 16 anni, sì. Nel senso che a 16 anni, se lei si ricorda, andava di moda, forse lei è molto più giovane di me, andava di moda il Ciao. Il motorino? Il motorino, sì. Il motorino Ciao. E nel carcere di Verona, nel vecchio carcere di Verona, sì, c'erano dei detenuti che erano estremamente bravi a lavorare con l'aerografo. E io portavo a 16 anni le biciclette e i Ciao all'interno del vecchio carcere di Verona per farli ripitturare in maniera particolare. Ma erano trafugati illecitamente? Assolutamente, no, erano tutte cose regolari, ti mancherebbe. No, perché detta così sembrava che lei andasse a rubare il motorino e poi lo portava dentro il carcere. Quindi, ecco, c'era già questa attività dentro il carcere che poi, diciamo, le ha suggerito possibili sviluppi. Ci fermiamo un attimo per il traffico, Giuseppe Ongaro, poi torniamo. Le voglio chiedere anche se, al di là delle statistiche che ci possono essere sulla minore recidiva delle persone detenute nei carceri italiane che lavorano e che sono coinvolte in questi importanti progetti, se almeno nella sua casistica questa cosa fa bene, insomma. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo in compagnia di Giuseppe Ongaro, del Lavoro e Futuro SRL, che lavora con i detenuti dentro il carcere di Verona. L'avevamo lasciato che portava i motorini da ragazzino a essere verniciati, no? Da questi primi artigiani, forse, del lavoro dentro il carcere. E adesso però, venendo ad oggi, delle persone che hanno lavorato con lei, ha saputo che qualcuno poi si è cacciato di nuovo nei guai dopo? Oppure il lavoro funziona e funziona bene? È una terapia? È una domanda da $1,000, nel senso che sicuramente la recidiva c'è, esiste. Direi che è lapalissiano il fatto che se a queste persone viene offerta un'opportunità concreta, la percentuale di recidiva crolla direi in modo significativo. Direttamente io posso avere solo l'esperienza di un'altra società che abbiamo all'esterno, che continua a fare lavorare i detenuti che hanno lavorato per noi anche dopo. Quindi lì si può gettare lo sguardo sul futuro. Sì, ecco, io su questo posso dire che ho persone da 6-7 anni, altre da un anno, altre da 3, sì. Si comportano molto bene e non ho mai avuto recidiva nel caso mio. Quindi insomma è una casistica ovviamente limitata, capirete, però per quello che vale. E tra l'altro mi diceva, prima di fare l'intervista, quando ci siamo parlati, che il meccanismo infernale che spesso genera nuovo crimine dentro il carcere è quello del denaro che serve per la vita dentro il carcere, che spesso le persone se lo devono procurare con prestiti proprio tramite le organizzazioni. Invece il fatto di lavorare dà questa possibilità. Assolutamente sì. Parole sante, nel senso che la recidiva in tantissimi casi è proprio procurata dal fatto di un debito contratto all'interno del carcere, perché il carcere costa, vale a dire, se io voglio farmi la barba, le lamette me le devo comprare, la schiuma da barba me la devo comprare, quindi devo acquistare anche cose, a mio parere, che servono per riavere dignità di se stessi, no? Vale a dire, se io ho la barba lunga, forse mi vedo allo specchio in un modo in cui non vorrei vedermi. E quindi comunque il carcere costa. Di solito, e questo è il secondo elemento che ha un certo peso, diciamo, su quella, come potremmo dire, che può essere una riflessione personale di un detenuto. Il detenuto perde la famiglia. Noi immaginiamo che la moglie, o viceversa, se la moglie è in galera, il marito, di certo ha un peso da sostenere non da poco. E nel 90% dei casi la famiglia si stacca dal detenuto. Ecco che allora, quando per esempio la venti diritto agli assegni familiari di una busta paga se li vede arrivare a casa, molte volte questo serve a ricucire un rapporto detenuto-famiglia. Beh certo, e i soldi aiutano, è una banalità, ma non i solo. I soldi aiutano sempre. E diciamo che, a mio parere, questo è il primo passo verso una reinclusione nel sociale, vale a dire se il detenuto non ha rapporti nuovamente con la sua famiglia, figuriamoci con la società, insomma, quindi la famiglia. Quindi l'autonomia economica che diventa il primo passo anche per un recupero poi dei rapporti all'interno di una famiglia magari già strutturata, questo aiuta, e poi tutto il resto deve venire di conseguenza se possibile. Assolutamente. Il primo passo lo aiuta a fare sicuramente anche un'attività come la sua, Giuseppe Ongaro, non è l'unica, in Italia ce ne sono delle altre, abbiamo voluto parlare di questa, tra l'altro ringraziamo ancora Cinzia di Tipi Tosti, il blog, che per quanto ci riguarda per prima ci ha fatto conoscere questa bella storia. Grazie Giuseppe Ongaro, grazie per il lavoro che fate a Verona, speriamo di sentirci presto con altre iniziative sempre da parte vostra, grazie. E va bene, adesso invece vogliamo parlare di un'altra eccellenza nel mondo della sanità, poi dice che in Italia non funziona niente, invece non è così. Un odore strano, ma non quanto lo straniero, che indigenza un'indecenza gli farà. Ma che ci vuoi fare se mi son sentito male? Idronefrosi con calcolo che sta ben posizionato come un bimbo che non nato, dentro all'utero si gode il suo relax. Prima il pasticcere, la sua voglia di dormire, ma non era tanto male questo no. Poi giunse il tennista e fu amore a prima vista, ma guarito fu il paziente e se ne andò. Ed infine lui si portò dietro i suoi guai e gli odori che a nessuno augurerei. Salutiamo Mario Angi, oculista, docente all'Università di Padova e soprattutto presidente di BCM Italia. Buongiorno. Buongiorno. BCM Italia è una onlus che si occupa di combattere, possibilmente sconfiggere le diverse forme di malattia, di disabilità, la cecità in particolare, ma anche disabilità fisica e mentale nei più svariati paesi del mondo. CBM Italia fa parte di una rete nel mondo. In questi giorni presentate la finalizzazione di un progetto importante che vede la sanità italiana cooperare con quella della Palestina, Betlemme in particolare, Palestina forse non esiste neanche, ma territori palestinesi. Mario Angi premiato da poco anche da una prestigiosa istituzione internazionale, quindi il meglio dell'oculistica mondiale. Che premio ha ricevuto, Angi? Ho ricevuto la Outstanding Humanitarian Service Award, che sarebbe un premio per l'opera umanitaria compiuta da un oculista nel mondo, membro della Società Americana di Oftalmologia. È una società che raggiunge circa 18.000 membri, la più importante al mondo, e quindi sono stupito e onorato di questo premio. Sì. Che premia soprattutto, diciamo, un impegno di squadra del gruppo di CBM Italia, dei progetti che abbiamo sostenuto in questi 10 anni nel mondo. Perché insomma la sanità italiana bisogna dirselo ogni tanto, perché ne parliamo spesso male sui giornali, alla televisione, invece voi che collaborate siete riconosciuti come onlus anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nelle sue classifiche mette sempre l'Italia ai primi posti, questo bisogna anche dirlo. Sì, noi non ci vogliamo bene, nel senso che gli italiani sono molto spesso delle persone che lavorano bene, di grosso livello scientifico, di grosso livello umanitario, e quindi sono contento che sia stato riconosciuto questo a livello dell'Academy americana. Venendo al progetto che in questi giorni, di cui presentate in questi giorni uno step importante, questo progetto di cooperazione tra gli ospedali della città di Varese e la città di Betlemme. Di che si tratta? Guarda, è un progetto finanziato dalla Regione Lombardia CBM che riguarda la formazione di otorini, chirurghi, che operano l'orecchio e la sordità nei territori palestinesi. Il progetto è innovativo e sta nello stile un po' di quello che noi portiamo avanti, nel senso che sono stati invitati in Italia dei medici palestinesi e poi ci sono state svolte 8 missioni per formare sul campo i medici locali. Perché il vostro obiettivo, insomma la vostra fissazione, vogliamo dirlo in termini positivi, è quello di prevenire e di curare malattie che in Italia o nei paesi occidentali, comunque ricchi, sono facilmente prevenibili e curabili, che invece nel terzo mondo possono creare disabilità per tutta la vita. Esatto, sia per la cecità che per la sordità che per l'handicap ortopedico. E lo stile nostro è quello di non sostituirci, ma donare attrezzature e formare personale locale. Complimenti anche a voi per quello che fate. Grazie per essere stato con noi, a Mario Angi, presidente di BCM Italia. Noi ci fermiamo qua anche per oggi. Io ringrazio Franco Piantanelli in redazione, Andrea Piana che ha scritto assieme a me il programma, Paolo Corleoni in regia. Mi trovate su Twitter @AleMaurizzi. Noi ci sentiamo sabato prossimo.